Si tratta di un festival, appunto, quindi nella stessa parola vogliamo anche fare festa, in cui per 4 giorni affronteremo molti argomenti relativi alle questioni di genere da un punto di vista interrogando la maschilità. Quella grande scomparsa, nel senso che ci poniamo in dialogo con i movimenti femministi, in assoluto ascolto e consapevoli anche, diciamo, delle posizioni di spesso di privilegio che rivestiamo in quanto uomini, nello stesso tempo sentiamo forte l'esigenza di portare delle specificità del genere maschile, a partire da quella semplicissima e banale che vede il genere maschile come uno tra i generi, non il genere neutro, e sicuramente che contiene tante sfaccettature che non sono molto raccontate. Ecco, vorremmo entrare in questo discorso insieme a tante studiose e studiosi di settore, insieme ai collettivi, alla società civile, agli attivisti e le attiviste. Claudio? Abbiamo detto che è anche una festa, e quindi quando si comincia e con quali appuntamenti? Allora, si comincia giovedì 11 luglio, ci sarà nel pomeriggio un workshop dedicato al mondo dell'educazione per insegnanti, e poi la sera ci sarà un talk con Emmanuel Casto e Francesca Cavallo, e poi avremo la proiezione di Orlando di Paul Preciado, e sarà quella la prima serata fondamentalmente, che apre tutto. E poi i giorni successivi, quindi venerdì, sabato, domenica, è dall'11 al 14 luglio, avremo invece vari talk, parleremo di femminismi, di corpo maschile, di sessualità, parleremo del lavoro di cura, parleremo del lavoro proprio, quindi del rapporto tra questioni di genere e mondo del lavoro, parleremo di tante cose, e poi ci saranno un po' di workshop, presentazioni di libri, e poi appunto un DJ set. Sabato sera, se qualcuno verrà, ci sarà un DJ set, facciamo un po' di... è la parte proprio più fest della parola festival. A questo punto un massismo, abbiamo appurato, che fa molto male alla mascolinità stessa. Assolutamente sì, molte di queste riflessioni partono anche in tempi non sospetti da un gruppo, un'associazione che nasce in Italia nel 94, che si chiama proprio Maschile Plurale. Il nostro festival si chiama Plurali Maschili, anche se vogliamo, in omaggio a coloro che per primi sono stati antesignani di queste riflessioni, proprio nella chiave di una riflessione che vede da un lato gli uomini artefici, i maschi artefici di violenze contro le donne, portatori di privilegi, rappresentanti di un'egemonia opprimente, dall'altro li vede a loro volta vittime di un sistema che non hanno chiesto, non hanno voluto, e alla quale sono educati, socializzati, senza avere altri modelli di riferimento per la maschilità. Ecco, noi iniziamo a ragionare su altri modelli possibili di maschilità al di fuori degli stereotipi della virilità macista, interrogandone una pluralità. Collaborazioni, Claudio? Collaborazioni ne abbiamo diverse, ad esempio Maschile Plurale, questa associazione che citava Massimo, ci sarà Stefano Ciccone, che è il fondatore di Maschile Plurale, ci sarà Mica Macho, che è una realtà, a proposito della parola macho che citavi tu, è una realtà anagraficamente più giovane, nata nel 2020, che si occupa molto di questi temi, soprattutto attraverso un profilo Instagram, e poi fanno autocoscienza online e altre cose. Avremo Educare alle Differenze, Mubi, il documentario Orlando di Paul Preciado è portato qui in collaborazione con Mubi. Diversi collettivi e collettivi, ci saranno le ragazze di Inside Porn, ci sarà l'associazione Cargomilla, il centro risorse LGBT che lavora con noi, due librerie fondamentali senza le quali non avremmo potuto fare tutta la parte di libri, che sono la Libreria delle Donne e la Confraternita dell'Uva, un collettivo che si occupa di tango queer, un tango decostruito sugli stereotipi di genere, e poi ancora, per non dimenticarmi nessuno, l'associazione Senza Violenza, che è come dire un centro per uomini maltrattanti. Se posso aggiungo una cosa sul il discorso del dov'è il ragionamento sul maschile ad oggi, perché spesso si parla di quante cose dobbiamo cambiare, diciamo, riguardo alla maschilità. Secondo me la cosa interessante che sta emergendo in questi anni da tante realtà che sono il maschile è che ci sono cose che vogliono essere cambiate, cose che vogliono essere mantenute ed evolute, perché sennò a volte sembra un po' una caccia agli streghi. Esatto, tipo tutto da buttare, tutto da cambiare. Non è questo quello che sta emergendo in questi anni. Tante persone, come dire, stanno anche cercando di riappropriarsi di una tridimensionalità maschile, magari non troppo concessa a volte, o non troppo performata, perché siamo abituati a essere uomini sempre allo stesso modo, e quindi è molto interessante quello che si può fare sulla maschilità. Per avere più comodamente possibilità di consultare, diamo alcuni riferimenti online. Potete andare tranquillamente sul sito leserredegiardini.it, dove trovate tutto il programma per estese, o anche sui nostri profili social Facebook e Instagram, Kilowatt, Le Serre, Osservatorio Maschile. Sì, in particolare particolare sul sito delle serre, nella parte 20 c'è proprio una pagina interamente dedicata al festival con tutte le info, i partner, il programma giorno per giorno, tutte cose.